No. Il nostro Marco Roma è, ecco, ci dedica ogni volta una canzone. Ho sbagliato traccia completamente, torna indietro. Però nel frattempo posso dire che se volete cantare in radio potete farlo con un WhatsApp al 333 180 94 94. Come fa? Giorno al cuore che risplende sul sole e risplende su di te, risplende sull'amore, risplende sul tuo cuore, anima e cuore, amore sia per te, e da Marco Roma, buongiorno a te. Perennemente innamorato Marco Roma, devo dire che un po' invidio questa sua... Lui è la primavera, Marco Roma è proprio, esatto, la primavera. Cioè lui bello come il sole, ogni due o tre giorni manda un vocale cantato a Radio Città Fucinco e noi di Coxo Spaziale lo ringraziamo, certo. Poi sempre un buongiorno, che comunque da qualche parte a quest'ora bisogna dire buongiorno a qualcuno. Alle 7 di sera ci sta di dire buongiorno a qualcuno. Mentre invece la musica che sentiamo di sottofondo oggi, ho messa appositamente per questa puntata, me l'ha spedita Donato Zoppo ed è, adesso ti dico come si chiama, questo è Corrado Cervo con il suo primo disco ed è tutto musicale, per cui l'ho usata, anzi perdonatemi, ma l'ho usata da musica di sottofondo. Si chiama Musiche Tecne. Stupendo. La musica antica e gli esperimenti contemporanei, la cultura greca, il folklore locale, perché lui viene da, aspetta, non lo trovo più, polistrumentista sannita, che ha incentrato la sua attività sul violino, immerso nel mare di suoni di Musiche Tecne, che è appena uscito, per cui ce l'hanno spedito. Io ringrazio Donato Zoppo che ci manda queste cose e ne approfitto per utilizzarlo per una puntata tutta completamente dedicata a Etta Polico. Si dice Polico, non si dice Polico, vero? Poi lui sannita, io Irpina. Aspetta che ti devo venire, anzi fai una cosa, alzare un po'. No, avvicinale un po' il microfono, certo. Grazie. Ecco. Perfetto, cioè non c'è bisogno che urli, ma semplicemente eri un po' troppo lontana. grande. Lui sannita e tu Etta dicevi? E io sono nata in Irpinia, cioè sono nata da Tripalda e siamo attaccati. Lui è in provincia di Benevento, io in provincia di Avellino. Fantastico, per cui era quasi una cosa. No, ma queste robe. Una serendipità. Esatto. Queste robe un po' magiche che succedono da sole, ci piacciono, insomma. Io direi che è perfetto per introdurre l'associazione culturale di Etta Polico, che è Serendipo, quindi le cose che succedono con questa serendipità, no? Da dove, quando siete nati e come mai avete scelto questo nome, diciamo, per l'associazione? Siamo nati nel 2007 in Vicolo dei Facchini e il nome viene dal fatto che stavamo cercando altro, stavamo cercando un regalo per una amica che in quei giorni compiva il 50° compleanno, io ero in Cina e cercavo disperatamente un libro per bambini scritto prima del 1911, in modo che non fosse inficiato dal nazionalismo di Sun Yat-sen e nemmeno poi dal comunismo totalitarista di Mao. Quindi volevamo una semplice favola per bimbi scritta in lingua cinese. Io il cinese lo stavo studiando in funzione della biochimica clinica. Certo. E incontro François Cheng, incontro tante persone, scrivo una favola che racconta di questa ricerca. Certo. Riusciamo a incontrare delle persone diverse che ci regalano dei libri e dovevamo necessariamente aprire una biblioteca. Certo. Siamo arrivati ad avere 4.000 volumi di libri afroasiatici. Caspita. E a fondare Serendipo eravamo io, che sono un biochimico, e Barbara Caterina, che è un filosofo e un matematico. Quindi venivamo proprio da formazioni completamente diverse. Certo. Ci siamo trovate in mano 4.000 volumi nelle lingue dei paesi dell'Asia e dell'Africa. Certo. In arabo, tutti in coreano. Donati. Tutti donati. E a quel punto era necessario farne qualcosa e quindi Serendipo, che che poi è Serendib, è il nome che gli iraniani diedero nel Medioevo allo Sri Lanka, andando in India trovarono quest'isola ed esclamarono Serendib, che in farsi medievale vuol dire meraviglia. Wow. È una cosa bella accaduta per caso, quindi certo, così, certo, siamo nate così, come la canzone di Donato, una cosa bella accaduta, che accaduta per caso, per caso. Bello, bello, bellissimo. Quindi nel 2007 Vicolo dei Facchini con questa biblioteca che però adesso non c'è più. No, lo spazio non c'è più, ma... Ma l'associazione sì. L'associazione sì, l'associazione mantiene tutte le cose con cui è nata, casa editrice, biblioteca. L'unica cosa che non ha è l'attività commerciale, che era la libreria che manteneva lo spazio, e soprattutto lavoro sulla città, con la città, lavoro con la città, certo, sulla città, con la città. E il lavoro con la città anche lì è nato sempre in Vicolo dei Facchini, perché nel 2007 ci fu la prima ordinanza per la cancellazione delle scritte sui muri a Bologna. E noi, lavorando in Vicolo dei Facchini, lavoravamo con la gente che scriveva sui muri, cioè lavoravamo, stavamo assieme, certo, vivevamo, condividevamo con le persone che scrivevano sui muri, e quindi ricevevamo molta energia, certo, dalle persone che scrivevano sui muri, e ci scambiavamo molti contenuti con queste, sì, persone. E quando la biblioteca non venne finanziata, però vennero stanziati tantissimi soldi per cancellare le scritte dei muri, certo, con un gruppo di artisti decidemmo di fare un percorso artistico che coinvolgeva anche antropologi, musicisti, non so, vennero a cantare gli Ofelia Dorme, per esempio, sì, venne la Burattini, Marco Gé come antropologo, e poi artisti giapponesi, giovani artisti, Lamin Sadio, che è un artista africano che vive a Bologna, e con loro facemmo un festival che si chiamava Body Tracing, che erano le tracce del femminile nel corpo della città, e indagava come il corpo delle donne fosse identico al corpo della città, e quindi uno scambio quasi empatico tra corpi architettonici e corpi vivi. Questa cosa ormai è super indagata e super studiata dal contemporaneo, però nel 2007 non lo era ancora. In che senso i corpi femminili, diciamo che... Allora, noi facciamo un percorso tutto di artiste donne. Certo. Per esempio, per l'Africa chiamavamo un collettivo costituito da una donna somala, e che raccontava la vita delle donne nelle città e come si approcciavano alle città, come si facevano notare nella città, e stavamo parlando di scritte sui muri, quindi certo, questo collettivo era un collettivo che faceva delle tag, certo, sì, sostanzialmente delle tag, e poi avevano delle fanzine, e questa Kinsey Kudo stampò delle fanzine con quello che facevano a Londra, certo. Allora, poi da lì nacque un percorso che sviluppammo l'anno dopo, che si chiamava Somalia, ed era la Malia della Somalia, e su questo ci intervistò Fedra, e la Malia della Somalia perché di Somalia si parlava solo di guerra, ma in realtà si parlava soltanto di bambini, cioè si inquadravano, si facevano vedere soltanto le miserie tremende, però certo, quelle miserie venivano vissute e rappresentate dall'arte contemporanea. C'erano dei ragazzi che vivevano di fotografia, c'erano dei ragazzi che vivevano, certo, di musica. E mi ricordo che all'epoca la Fondazione Carisbo non ci finanziò, e questo fu il momento in cui decidemmo indipendenza totale, mai più chiederemo un finanziamento a nessuno, certo, a nessuna istituzione, restiamo indipendenti. Non ci finanziò Somalia perché ci disse: state rappresentando l'Africa in un modo che non sono i bimbi testualmente con le mosche al naso. Ma a quel punto decidemmo che caspita, non era il nostro obiettivo, e ci credo, che ci piaceva parlare della malaria della Somalia. Certo, e quindi, certo. E ma quindi come? Da lì non mi piaceva parlare dei bimbi con le mosche al naso. No. No. No. Incredibile. No, è una frase incredibile. È una frase insopportabile. Sì, infatti. Sì. Sì, sì, sì. Vi interrompo per mettere un po' di musica. Sì. Se parte. Caspita. Questo pezzo vero? Bellissimo. Tra l'altro devi sapere che io questo pezzo non lo dovevo suonare perché stata una serendipità? No, cioè ho semplicemente c'era scritto di non suonarlo, ma io l'ho suonato lo stesso. No, ovvero questo mi è arrivato qualche giorno fa da Marco Gargiulo, che ringrazio, di Metaversus PR, ed è un nuovo disco che si chiama Six Fourth of Love di Shiva Bhakta, ovvero al secolo Lidio Chiericoni, un musicista spezzino che è trapiantato a Bologna. Se ci sta ascoltando, cosa abbastanza improbabile, sappi che ti vogliamo invitare a Coxo Spaziale, sì, a suonare dal vivo. Assolutamente, vieni. Fatto sta che comunque, come di solito fanno le case discografiche, ci hanno mandato tutto l'album e io mi sono messo ad ascoltarlo tutto, e questa canzone era molto carina. Esatto, mi è piaciuta, si chiama She's an Alien, e mi è piaciuta più di tutte le, cioè più delle altre che ho ascoltato, perché devo dire che non sono riuscito ad ascoltarlo tutto, però c'era scritto che il brano per la radio era un altro che dovevo suonare, che era I See You. L'ho ascoltato, ma mi piaceva di più questa. Per cui il disco in realtà esce il 6 aprile, per cui abbiamo fatto un'anteprima speciale, un'anteprimissima che non dovevamo fare. Adesso vediamo se ci querelano oppure se ci ringraziano, vedremo. Speriamo di no, noi comunque ringraziamo loro. Esatto, noi ringraziamo Marco intanto, ma comunque Shiva Bhakta, sappi che ti vogliamo a Coxo Spaziale a suonare dal vivo. Sì, assolutamente, è molto carino, mi piaceva molto. Sì, bello infatti, gran pezzo. Sì, sì, sì. E così possiamo andare avanti a raccontarci sta cosa inquietantissima della... Sì. della Fondazione Carisbo. Della Fondazione Carisbo, che vuole rappresentare i bambini africani in un certo modo e non allegri, felici, che magari fanno arte o fanno altre cose, no? Incredibile. Come succede poi, voglio dire. Può succedere. Può succedere. Anche perché ci sono paesi che sono in guerra da così tanto tempo che non è che puoi. Sì. Puoi tenere tutto fermo e non essere felice. E insomma. Non mostrare un minimo di speranza. Esatto, sì. O umanità. Insomma. È umanità. Sì, anche proprio di quotidianità, direi. Quotidianità. Ma dunque, adesso ti importuno un po', cioè, perché è un'associazione abbastanza fumosa. Guarda, nello statuto c'è scritto? Ma nello statuto c'è scritto che siamo un'associazione culturale. Ok. E basta. Mm-hmm. Siamo un'associazione culturale e siamo un'associazione di promozione sociale, perché tutte le cose che facciamo le facciamo molto spesso con i richiedenti asilo, con le persone che vivono in strada e siamo un'associazione di promozione sociale. Però sostanzialmente ci piace definirci come un contenitore reticolare molto flessibile che attraversa spazi privati e spazi pubblici ed è una rete di persone che è cresciuta poi nel tempo. Mm-hmm. Certo. Per cui abbiamo tantissimi amici, associazioni amiche, aziende che ci forniscono i materiali di scarto con le quali facciamo i progetti. Certo. La cosa che ci caratterizza in assoluto è il voler rimanere una realtà indipendente, certo. Voler rimanere liberi. E adesso dove siete? Avete una sede? Non abbiamo una sede. Siete volanti. Non la stiamo neanche cercando. Certo. Ci piace lavorare nello spazio pubblico, quindi non la stiamo cercando. E non la stiamo cercando. Io mi rendo conto che Bologna sia una città viva, sì. Però molto spesso le energie non vengono raccolte. Non si capisce molto bene il perché. E sono rimasta molto colpita 2 settimane fa da una istituzione che aveva utilizzato come vision un payoff per me molto dirigista, cioè l'istituzione l'istituzione che legge e costruisce le visioni della trasformazione della città. Legge e costruisce le visioni della trasformazione della città. E allora in questa città io devo muovermi in maniera alternativa. Certo. E quindi Serendipo si deve necessariamente muovere in maniera alternativa. Certo. E lo fa costruendo incontri per strada e questa cosa è diventata sempre più grande. Certo. E ci siamo inventati sempre nel 2009 questo acronimo che è RUSCO, Recupero Urbano degli Spazi Comuni. E col recupero urbano degli spazi comuni abbiamo chiesto a diverse aziende del territorio di darci tutti i materiali di scarto. Certo. Una volta che poi abbiamo cominciato a lavorare con queste aziende, allora abbiamo chiesto anche di fare formazione alle persone con le quali lavoravamo e di dare loro un attestato. Certo. E poi si è creato questo scambio, per cui l'ultimo progetto che abbiamo fatto, che è disegnare dialoghi in mercati. L'ex mercato ortofrutticolo dove c'era XM, lavoravamo con 18 persone che molte di queste abitavano proprio le cabine Enel che poi abbiamo disegnato facendo una call con degli artisti. Questi ragazzi ci hanno dato una serie di ricette, hanno costruito delle feste con la loro cultura. Certo. Sayerlac li ha formati e ci ha dato i materiali di scarto. E adesso questi 18 ragazzi sono entrati in progetti, non vivono per strada e stanno tutti lavorando. Certo. Fatto tutto per caso, cioè nel senso fatto con questa rete di amicizie che dal 2007 è andata avanti, si allarga sempre di più, e quindi poi diventa tutto uno scambio reciproco, non c'è qualcuno che insegna qualcosa a qualcun altro, c'è la capacità di interagire. Di lavorare insieme e su quel territorio proprio ieri i ragazzi di Bancarotta hanno finalmente occupato uno spazio. Certo. Perché finché non ci sono spazi di dialogo, di dissenso, di confronto anche. Di confronto, cioè non ci può essere un'unica visione di città. Assolutamente. Una città si trasforma quotidianamente. Si trasforma quotidianamente, si trasforma anche con il conflitto, anche con il disagio. Bisogna attraversarlo un minimo, certo. Il disagio, perché non nasce neanche arte, almeno per me non nasce nel mio modo di essere, non nasce neanche arte. Certo. E chi sono questi di bancarotta? Scusa l'ignoranza, ma non li conosco. Dentro al gruppo dei ragazzi di bancarotta ci sono anche alcuni dei ragazzi di XM. Mm-hmm, ok. E poi una serie di associazioni che erano senza sede, molte di queste lavoravano dentro XM. Ah, certo. Cambiare rotta. Mm-hmm. Alcuni dei ragazzi del burnout, okay. Quel gruppo di persone lì. Mm-hmm. E l'hanno occupato in dicembre? E l'hanno occupato ieri. Ieri via Fioravanti. In via Fioravanti, ok, mm-hmm. Ho capito. Ma senti, ma quando parli di formazione invece? Quando parlo di formazione tecnica, okay. Allora, anche lì sembra sciocco dirlo, però effettivamente le cose accadono così. In Trilogia Navile, sì. Erano state costruite molte più cabine Enel di quante non fossero necessarie a servire gli appartamenti che erano lì. Certo. Alcune di queste cabine erano diventate dimora di persone. Certo. E io abito in via Mitelli, quindi sì. Passando di lì ho fatto amicizia, in particolare con una persona. Certo. Giallo Mohamed Saliu, che è un mio amico caro, che salutiamo adesso in radio, si sta ascoltando, e che viveva lì. Ok. E allora abbiamo cominciato, certo. A parlare, chiacchierare, raccontarci, e in contemporanea io avevo avuto una multa di 5.000 euro per un lavoro che avevo fatto in via del Guasto. Ops. E una multa che poi ho collettivizzato, è stata risolta quella, certo. Situazione. I cittadini di Trilogia Navile mi avevano contattato nella persona di Carlo Petrovic, saluto anche lui, e la Elena Lambertini, anche Mauro. Ciao Carlo, ciao Elena, ciao Mauro. E mi dicono: perché non facciamo dei disegni su queste cabine? Allora ti faccio un attimo una parentesi di ignoranza: le cabine Enel, le cabine Enel sono per i lavoratori? No, poi sarebbero nate per mettere cosa ci sono? I cavi, però erano senza cavi, perché erano molti di più rispetto, okay. Al numero. Sì, sì, sì. Ah, d'accordo. E sono state quindi create per un errore proprio. Cioè, dovrebbero esserci degli accumulatori di, esatto. Tensione. Certo, okay. Certo, okay, che d'accordo. Se sì, no, non puoi viverci dentro se c'è l'alta tensione, no, ma no, se sono erano vuoti. Certo, okay. Certo. Allora, queste esigenze dei cittadini. E loro le hanno costruite di più e le hanno mollate là. Ma le hanno mollate là perché sono rimasti bloccati i lavori per tantissimo, sì, tempo, non stanno costruendo tutto adesso. Quello che volevano costruire, adesso stanno ricostruendo, quindi, okay. Quindi prima o poi serviranno. Prima o poi servono. D'accordo, sì. E quindi i cittadini avevano questa esigenza di dipingere, certo. Le cabine, di dipingere, no, di fare un percorso su ste cabine. C'erano delle persone che frequentavano le cabine. Certo. E allora ci accorgiamo che esiste un progetto ministeriale che si chiama Nausica. Certo. E questo progetto ministeriale prevedeva la formazione al lavoro di richiedenti asilo. A quel punto io chiedo a Sayerlac se mi fornisce i materiali, ma mi fornisce anche un tecnico in grado di dare un diploma, certo. Per questi ragazzi. Come elettricisti? No. Ok. Come? No, per le resine e per i colori, per dare Sayerlac ci dà i colori. Okay. No, no, per dipingere, certo. Le cabine. Sì. In contemporanea con i cittadini faccio una call, sì. Per artisti, certo. Il cui tema era disegnare dialoghi. Certo. Dialogo tra lo spazio esterno e lo spazio interno, e vengono fuori delle cose assurde, certo. Molto molto particolari, molto, certo. Particolari. E il percorso però si è alimentato con delle feste organizzate dai ragazzi africani, delle mostre di fotografia fatte da fotografi, uno è Guido Calamosca, che ha fotografato tutti gli interventi, certo. Del corso dell'anno. Perché è durato 12 mesi. Perché è durato 12 mesi. E poi abbiamo fatto una proiezione di un video di Lamin, che è il videomaker che ha filmato tutto. Un gruppo di ragazzi africani suonava lì alle cabine la loro musica. Insomma, si è creato per caso, certo, per serendipità, però non posso dire di avere una struttura. Abbiamo delle visioni, abbiamo delle condivisioni, però avete dei moti anche, degli interessi, sì, delle tendenze, tutto. Sarebbe bello se lo facessero vedere su Rai 1, no? Un progetto del genere, sì, in prima serata, sì, per raccontare che comunque ci sono delle modalità alternative, sì, anche di comunicare, sì, con lo straniero. Ne parlavo, sì, ma vi devo fermare di nuovo perché ci sono le pubblicità delle 19:30. Per dare un nuovo slancio al tuo business. Ti rendi conto anche tu? Vivi per me, sì, però io non vivo più. Lo sai, la vita sceglie per noi. Possiamo parlarne se vuoi, sì, ma la notte è giunta per noi. Siamo già tornati. Ti alzo le cuffie. Eccolo, perfetto, stupendo. Questo si chiama Andrea Laszlo De Simone. Andrea Laszlo? Lo conoscevi? No. Sì? No. Perché non lo conosce nessuno. No. La nostra fine. Ok, d'accordo. No, lui è un. L'ho scoperto ieri. Bello, devo dire. Anche questo mette in un mood un po' sognante, un po' carico. Ci sta. Devo dire che a Coxo Spaziale c'è sempre della buona musica. C'è sempre, no? Della gran musica. Sì, considerando che io non so nulla di musica, è abbastanza serendipico. Sì, questa sì, cosa. Sì. Bello, ci sta, mi piace molto. Grande Laszlo. Grande. Mi ho messo anche il jingle, visto che non l'avevo messo dopo la pubblicità. Questo non l'avevo ancora mai sentito. Questo? Sì. Ah, questa è, sì, la fantastica Haru Suzuki che ci ha fatto il jingle. Ci sta. Stavamo parlando offline di quanto sia serendipico parlare di Serendippo in radio. Di quanto chissà chi ci sta ascoltando adesso, che cosa gli rimane di questa piccola ascoltata che magari fugace tra un semaforo e un altro, un distributore di benzina e l'altro. Non so, è carina questa cosa. Insomma, magari abbiamo tolto un po' di rabbia a qualcuno che stava considerando quanto costa il diesel e la benzina in questo momento alla pompa di benzina. Sì, è vero. Senti, ci stavi raccontando, Etta, di insomma, come queste poi come si chiamano, non cassette dell'Enel, queste sono dei casottini dell'Enel, siano poi che sono stati trasformati, ma sono tutti disegnati, alcuni sono disegnati, alcuni hanno delle foto. Non so, c'è un'opera di Van Tis che è quel ragazzo che in città attacca le sagome delle persone da dietro sui muri. Lui è un fotografo brasiliano e io l'ho scoperto sui muri, certo. E gli ho chiesto di partecipare alla call. Lui ha partecipato a questa call, tra l'altro per 10 cabine ha ricevuto 48 progetti. Caspita. Ed è stata aperta un mese solamente. Caspita. E questo è un altro problema, nel senso che c'è un bisogno enorme di lavorare. Noi siamo convinti, c'è troppa offerta e poca domanda, e noi siamo come in tutto il mondo dell'arte, però noi siamo convinti, un altro dei principi di Serendipo è che l'arte va pagata, cioè così come si paga la formazione dei richiedenti asilo, allo stesso tempo si pagano gli artisti, perché l'arte è un lavoro. Ecco, l'altro principio di Serendipo è che tutto è un lavoro, perché senza il lavoro non si riesce a sopravvivere. Ma certo. E l'immaginare è strettamente legato alla sopravvivenza. Certo. E quindi qualsiasi tipo di lavoro deve essere retribuito. Le modalità di finanziamento sono recupero urbano di spazio comuni, quindi chiediamo alle persone di assumersi minimo 1 euro, 5 euro, e di finanziare i progetti per pagare una sorta di crowdfunding. Dei crowdfunding fatte porta a porta. Io mi ricordo una espressione di Dem quando abbiamo fatto un muro a Corticella nel 2016, con un progetto anche lì tutto improntato sul lavoro, che noi avevamo deciso nel 2016 che ogni artista avrebbe avuto 400 euro per un lavoro sui muri. Era venuto fuori da interviste fatte dai bimbi di una scuola e i loro nonni, che cosa volevano sui muri, la storia di Corticella. Allora Dem mi saluta prima di partire e mi dice: io non sono mai stato pagato 400 euro in monetine, ma sono contento perché i vecchietti che venivano conoscevano il mio lavoro e sapevano quello che stavo facendo. È stato pagato 400 euro con le monetine. Però è successo. Sempre 400 euro sono. Sì, sono un po' più pesanti da portare, ma comunque rimangono 400 euro, che devo dire per un muro non sono poi tanti. No, non sono tanti. Nel 2006 no, era un progetto che era quasi un benefit, certo. Era il centro civico Michelini di Corticella, e lì ci eravamo immaginate, lì ci avevamo fatto un viaggio pazzesco, perché io sono un'appassionata di Tarkovsky e allo stesso tempo sono un'appassionata degli Stalker, che è un collettivo romano, Piccio Careri. E niente, ero andata al centro civico Michelini perché mi avevano chiamato per far dipingere una bacheca, certo, ad un artista. E io però, quando sono arrivata in questo centro civico, mi sono resa conto che lì c'erano delle scuole, certo, e c'erano dei ragazzi delle scuole medie. Quindi ho detto: no, Serendipo non è che chiamo un artista per dipingere una bacheca per il 25 aprile, certo, facciamo un percorso con i ragazzi delle scuole e facciamo dipingere la bacheca a loro, magari seguiti da un artista, certo. E infatti chiamavamo Raffaele Marra, che coordinò e che era allora il presidente della consulta dell'Accademia. Ok, perfetto. E dipingemmo questa bacheca. A un certo punto chiedemmo ai ragazzi, per dipingere la bacheca, di intervistare le varie attività, certo, le persone del luogo, per capire che cosa volevano che venisse. Certo. Era il cambiamento dell'immagine della città. Sì, sì. Quindi chiedemmo loro di fare un giro nei bar, nelle attività commerciali, e coinvolgevamo allo, certo, stesso, in questo modo i bar, le attività commerciali, i loro nonni. Certo. Venne fuori che la cosa che più tutti volevano era che quel posto, che era dal 1977 completamente lasciato a se stesso, venisse dipinto tutto, ma quello spazio lì era enorme, gigantesco, tanto che alla fine ci hanno lavorato 43 artisti. Caspita! 43 artisti, la Cinzia del Nevo, Dem, Giorgio Bartocci, Guerriglia Spam. Certo. Insomma, è stato una Sonia Romani che aveva messo, certo, le foto. E, insomma, è stato Andrea Casciu, Kiki Schipi. È stato fatto con i vecchietti, corale, che però avevano raccontato queste storie, e quindi si sentivano coinvolti, appunto, certo, che Bartocci e Dem dissero: i vecchietti conoscono il nostro lavoro e, certo, e noi però conosciamo le loro storie, certo, e quindi era veramente un e un si dialogo. Chiama Zona NG perché era la camera dei desideri, era la camera dei desideri di Stalker di Tarkovsky, e tu entri e sei di fronte al tuo desiderio. Bello. Per questo l'abbiamo chiamato Zona NG. E questo, certo, dov'è? Perché me lo devo andare a vedere, sì, sto lavoro. Sì. È al centro civico Michelini, Corticella, in linea d'aria è qui dietro, okay, via Gorchi. Mm-hmm. Via Gorchi. Senti. Adesso cambieranno via Gorchi. Sì, No. È giusto. Adesso c'è il grimicinismo storico. Esatto. Spero bene di no. Ecco, un'idea di Serendipo adesso è quella di coinvolgere gli artisti russi e di far qualcosa con gli artisti russi, quindi un appello agli artisti russi io che sono a Bologna. Amici. Non sono a Bologna, però. Beh, che possono raggiungere facilmente Bologna, artisti di qualsiasi tipo, che abbiano voglia di raccontare, certo, la loro visione di quello che sta accadendo. Certo, certo, certo. Io sono amico di Yelena Nemkova, un'artista russa che sta a Milano, che sta durante MiArt, farà questa mostra per beneficenza, per dare fondi all'emergenza ucraina. Caspita. Eh sì, cioè non la invidio per niente in questa situazione. Sì. Anche perché, fra l'altro, adesso non puoi neanche più viaggiare, no? No, dall'Europa, infatti, alla Russia, per cui è tosta la faccenda. Molto. Cioè, tosta in generale, però non solo per l'Ucraina, insomma. No. È per questo che ci piacerebbe coinvolgere anche gli artisti russi. Beh, allora lasciamo questo appello in radio, città Fujiko. Sì, esatto. Senti, ma faccio una domanda che scolla un po' cioè un po' una domanda da avvocato del diavolo, forse, però mi è venuta in mente in questo momento e volevo porla così. Ma questi muri o queste casette dell'Enel, così, poi com'è che vengono? Cioè, com'è la manutenzione, diciamo, di queste opere pubbliche? Si sfaldano. Allora, è la loro vita. Per me sono opere che sono per strada e quindi fanno il tempo che loro concede la strada. Poi, certo, io mi aspetto sempre un'interazione e mi diverte anche molto vedere come la città reagisce. Certo. Sì, è molto bello vedere. Ma sei mai tornata in un luogo di un intervento urbano che hai fatto dopo tipo, non so, tanti anni, per vedere cosa ne è rimasto? Il vicolo dei Facchini è quello, appunto, che mi è costato una multa di 5.000 euro ed è bello andare lì perché, certo, intanto ci sono le opere di Luca là, che è uno degli artisti che purtroppo è morto dopo un anno, che ha lavorato anche a Corticella ed è morto a 24 anni, altrimenti sarebbe uno dei nostri artisti di punta, perché che aveva disegnato una figura pasoliniana e una giraffa bellissima in Vicolo dei Facchini. Io Luca l'avevo conosciuto in Vicolo dei Facchini una mattina stava passando con la sua birra, io ero con gli artisti lì a lavorare, e mi fa vedere il suo sketchbook, io lo guardo e gli dico: no, ma Luca, ti serve un muro, prenditi il muro che vuoi e fai quello che vuoi. Certo. E lui disegna questo volto raccontandomi, per me è uno dei volti di Pasolini. E se vai adesso a vederlo, c'è un intervento fatto dalla strada, però vedi Pasolini su Via del Guasto, nonostante Via del Guasto sia stata tutta riscritta, certo, come è giusto che sia. Via del Guasto alla fine è sempre stata una lavagna, quindi, certo, rimane quello che è, però ci sono alcune opere che sono rimaste lì, e non solo quella di Luca, c'è Atena, che ha fatto un alveare vicino ai bagni pubblici. Certo. Questo è un progetto del 2016, quindi sono passati moltissimi anni. In vicolo dei Facchini, i lavori fatti nel 2011 sono ancora tutti lì, tranne una proprietà ha trasformato un magazzino in B&B. C'era un lavoro bellissimo di Andrea Bruno, hanno buttato via la porta senza neanche dircelo e lì è stata un'operazione commerciale. Certo. Appunto, questi signori hanno trasformato lo spazio e, sì. Però c'è Chope Caff, per esempio, in vicolo dei Facchini, che durano dal 2011. Certo. La porta di Andrea non c'è più per questo motivo logistico della proprietà. Sì. No, perché è interessante quando uno spazio pubblico viene in qualche modo trasformato, appropriato dal linguaggio di un'operazione artistica e poi rimane ancora pubblico, cioè come se venisse poi attraversato da questa cosa, perché di solito poi diventa quasi, non vorrei dire privato, però lo sguardo che gli viene dato sì diventa un po' intoccabile, quella cosa là. Ecco, questa è una cosa che io detesto dell'arte pubblica, cioè l'arte pubblica è bella finché rimane pubblica. E tanto che ho quasi smesso di lavorare con i muri e con dipingere con i muri. Abbiamo cominciato a lavorare con la scultura, con la fotografia, con la performance, certo, con i video, con le installazioni sonore e luminose, perché purtroppo succede quello che dici tu, e cioè diventa poi un'operazione di riqualificazione che non voleva essere. Certo, no, il rischio era forte. Era che non voleva essere. Quindi poi non... naturalmente Bologna è un posto dove non succede niente, per cui la gentrificazione ci mette 50-30 anni, capito, a succedere, mentre invece appunto in altre città sta cosa qua diventa pericolosa. È pericolosa. Cioè, se pensiamo a Berlino, no? E Berlino è diventata orribile, così. Cioè, poi, esatto. E poi diventano tutti uguali. Infatti, queste città, perché chiamano sempre gli stessi artisti. Infatti. Cioè, che non interagiscono davvero con il tessuto. Che sono dei decoratori urbani, questi. Sì. Bruttissima la decorazione urbana. Chiaro. Che quasi fanno un'operazione finanziaria Un'operazione finalizzata a un intervento di gentrificazione, come diceva lui. Certo. Questo è la cosa. Così. È un rischio molto brutto. È un rischio. Invece con il video o con le installazioni. Con le installazioni, con la rimane fotografia, proprio con la performance. Con la performance, certo. Ma rimane veramente momentaneo, nel senso che una fotografia, una vetrofania, certo, ti dura al massimo 3 mesi e poi non c'è più, e poi viene coperta, e poi in questi 3 mesi viene scritta, certo. Quindi è molto dinamico, molto certo. Dinamico. Sì. Senti, vuoi dire qualcosa sulle pensiline dell'autobus? Che è un progetto Voglio molto dire bello. Qualcosa sulle pensiline dell'autobus. Intanto lì ringrazio Tiper che ci ha dato gli spazi sempre gratuitamente. Questo è un progetto sempre di Serendipo, quella delle pensiline degli autobus è un progetto di Serendipo che ormai va avanti da 5 anni e noi l'abbiamo chiamato Pubblicittà, e cioè città pubblica, certo, perché volevamo sostituire sulle pensiline degli autobus. Le pensiline degli autobus erano tutte ricoperte da immagini pubblicitarie, certo, però avevano dei vetri 1 metro per 1 metro, certo, e attraversavano tutta la città, dalla, certo, periferia al centro, alla fiera, e potevano essere benissimo spazio per esposizioni di artisti contemporanei che non trovano luoghi in cui esporre. Come prima dicevamo, domanda offerta, troppa offerta, poca domanda, per cui certo. E quindi sistematicamente facciamo delle call. Sì. E tutto è partito con non so se vi ricordate il gabbiotto che c'era in via Lame Marconi, sì, che era il bellissimo, e quello che c'era prima e che adesso è stato sostituito, certo, dal nuovo progetto, quello di Zacchiroli, quello, certo, storico. Quello spazio era tutti vetri, lasciato a se stesso, e allora ci siamo chieste perché non lo riempiamo di fotografie e soprattutto perché non chiamiamo anche degli stampatori. Sembrava quasi uno scheletro di un dinosauro. Esatto. Quello spazio era uno scheletro lì, così indifferente al traffico, però presente. E quindi chiamaste? E quindi chiamiamo, facciamo una call e esponemmo una ragazza francese che aveva appena vinto una biennale di fotografia in Francia, che ci presentò un progetto meraviglioso. E poi dicevo, però aspetta, solo fotografia no? Era appena nato il collettivo, il Checkpoint Charlie a Bologna. Certo, certo. E quindi andammo da questi ragazzi e dicevamo, provate a proporci un progetto di stamperia, cioè di certo. tipografia su uno spazio pubblico. E loro stamparono e fecero delle serigrafie della città vista dall'alto e vista dal basso, e in mezzo stamparono, in mezzo alle foto stamparono tantissime foglie, per cui sopra c'erano i piedi e sotto c'erano gli occhi. Ma dai. E in mezzo c'erano delle foglie, gli occhi e i piedi bianco e nero, le foglie colorate, in mezzo alla c'erano città. Degli attimi di vita fotografati da vari fotografi, l'era delle donne, quindi era tipografia, sì, sì, fotografia dentro, tipografia, fotografia. Yuri è un ragazzo fiorentino che fa delle facce giganti, aveva fatto un intervento di poster art dentro due pezzi di vetro, e all'interno del gabbiotto certo. facciamo una performance. Certo. Quindi mescolammo tutte queste cose assieme e Tiper ci diede gratuitamente lo spazio. Da lì l'anno dopo hanno abbattuto lo spazio. Caspita. E allora gli abbiamo chiesto le linee degli autobus. Okay. Una donna super illuminata, che è Roberta Carlana, che salutiamo anche, che Roberta. Salutiamo anche Roberta, ci ha dato, ci ha continuato a dare gli spazi, e quindi sì, fa parte un po' della rete di Serendip, di questo contenitore gigantesco nel quale mettiamo dei pezzi. Ma dunque, quando, cioè, quello che è successo in questo gabbiotto, per esempio, no? Cose di vari artisti, eccetera, ma ci sono curatori dietro? O ci sono curatori dietro di volta in volta, ovviamente. Okay. Allora, no, perché detta così sembrava che ognuno arrivasse e facesse. No. Allora, intanto tutto nasce su bando. E okay. Con un tema, c'è cioè una call, si seleziona degli artisti, c'è una giuria. Adesso l'ultima, la penultima pubblicità in giuria avevamo sia Lorenzo Balbi che Fabio Rinaldi. Okay. Cioè, gente che sa il fatto suo. Si costruisce, certo. Chiaramente ci siamo noi dentro. Sì, al sì, sì. E poi sempre c'è qualcuno che abita quello spazio. Cioè, qualcuno e che dunque, e dunque dove li troveremo i prossimi bandi di Serendipo? I prossimi bandi di Serendipo sul sito di Serendipo, che è Take Art Away, e che stiamo aggiornando. Ok. Comunque non domani troverete qualche link. Non sappiamo comunicarci. Troverete qualche link su www.coxospaziale.blogspot.com che tu gentilmente ci darai, perché qui il tempo sta finendo. Infatti stavo guardando che sono 19:58, quindi infatti. Abbiamo due minuti per dire le ultime cose o le prime cose. Le prime e le ultime, quelle che vuoi tu. I classici ultimi due minuti in cui non si sa più che cosa dire e si deve trovare l'equilibrio tra dire tutto. No, chiediamo niente. A Etta che cos'è che non ci ha ancora detto e che ci doveva assolutamente dire. Non vi ho ancora detto che sto uscendo con una pubblicazione che è una pubblicazione di arte e di scienza, di cui vi dico soltanto il titolo, ed è Vi come virus. Okay. È una pubblicazione fatta di tanti disegni fatti da una artista che è anche uno scienziato e che ha curato anche la parte più strettamente scientifica, che è legata alla comunicazione della scienza in pandemia. Cioè, è un lavoro molto divertente ed è anche però un dall'argomento non si direbbe. No, è un lavoro molto divertente, ma allo stesso tempo è un lavoro di grande riflessione. Okay. Di grande riflessione, come le cose di Serendip. Certo, certo. Che sembrano molto leggere, sono molto leggere perché in realtà ci piace sorvolare. Certo. Però ci piace anche essere nel momento. Certo. E essere nel momento è sempre molto pesante. Ah, certo. Fai come l'albero che mostra i fiori e non le radici. Mm. Cioè sei profondo senza... aveva senso questa metà. Sì. Cioè, sei profondo senza mostrarlo. Senza mostrarlo. No? Sì, sì. Sta, bene, io ti ringrazio tantissimo di essere venuta e ringrazio Mia per averti portata, insomma. Ti conoscevo di fama da un sacco di tempo, ma non ci eravamo mai incontrati, per cui grazie per essere venuta a Coxo Spaziale. E sì, grazie. Grazie a voi, ragazzi. Noi, come al solito, ci risentiamo lunedì prossimo, sempre dalle 19 alle 20. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Io so che c'è una Simona che ci sta ascoltando, per cui la saluto così en passant. Salutiamo Simona en passant. Barbara e tutte le persone che hai citato, insomma, ringraziamo e salutiamo tutti. Marco Roma e ringraziamo Mia da Schio su Piei. Grande. Stefano W. E Sannita che ci ha offerto della musica meravigliosa. Grande. Ringraziamo anche lui e ringraziamo anche Little Green che ci saluta con la sigla finale. Eccola, senti qua che meraviglia. A lunedì prossimo. It started with the weekend, turning 16. I was ready for my first time. Then my body weakened, going to the demons, messing with my head all night. Saw you coming over, eyes were glazing over, staring in between my thighs. Headed for the deep end, tears in my eyes. Now I'm cautious, if I'm honest, I make myself nauseous just to rid myself of you. Just like a man, gray skin savvy, sleeves color my scratches, trying to rid myself of you. Now I'm 17, getting high on weed, I'm flying away from you. Smoking out memories till I'm all empty, veins of ivory blue. Starving on the weekend, reckon I've been bleeding out the bathroom every night. Headed for the deep end, tears in my eyes. Now I'm cautious, if I'm honest, I make myself nauseous just to rid myself of you. Just like a man, gray skin savvy, slaves color my scratches, trying to rid myself of you. My indecision means that you decide. My indecision means that you decide.